Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia anche per questa sera prove tecniche di trasmissione. Oggi prima puntata del 2018, 3 gennaio 2018. 0649 1750 il contatto telefonico. Sito internet è sempre quello, ovviamente, www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming. Per quanto concerne le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e questo spazio possiede un riferimento Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani, oltre che nel sito, comparirà la playlist e il podcast conseguente. Il palinsesto prevede alle 22.30 circa, 25 o'clock, si va a salutare Raffaele da Napoli, Raffaele Pezzella, Giovanni Campagna da Copenaghen. L'abbiamo nominato e quindi non a caso abbiamo qua questo Northern Lights, The Scandinavian Experimental System Serving, una compilation del 2016. Una delle tante compilation che faceva il punto sulla scena scandinava per quanto riguarda ambient sperimentazione noise. Un mucchio, un mare di nomi al più abbastanza sconosciuti. Ed è bello infatti scoprire anche queste pagine così nascoste nel grosso panorama scandinavo. Cominciamo con Varististima, un personaggio di chiara, direi, origine finnica, con Taiva Kappale. Io chiaramente mi ingegno nel finlandese, che non è la mia lingua madre, neanche la seconda, la terza o la quinta lingua, quindi prendetevi questo tipo di finlandese. Leggermente più semplice, Klaus Poulsen, credo danese, con Touched When Dreaming. e ringraziamo Raffaele Pezzella delle puntuali notizie che ci dà di questo baristima Janne Leinmeiten, Jarkko Mikael Edenius, un duo finlandese da Helsinki che viene da lontano, addirittura dal 1992, e che grazie al Raffaele Pezzella scopriamo questa sera. E sono d'accordo anche sulle reminiscenze coil di questa traccia, ottimamente definita come girotondo sinaptico. Complimenti al Pezzella. Taiwan Kappale, questa traccia baristima. Eccolo qua, Klaus Poulsen. Raffaele ci darà una mano anche su Klaus Poulsen, io scommetto che è danese, vediamo un po'. Quello che è sicuro è che Touched When Dreaming è la traccia estratta dalla medesima compilation Northern Lights. Prima puntata dunque di questo prove tecniche di trasmissione per oggi, 3 gennaio 2016, sono le 21:16. Abbiamo cominciato con Northern Lights, The Scandinavian Experimental Assisting Survey. Grazie a Raffaele Pezzelle e alla sua Nesplend Sounds, etichetta che ci delizia con queste splendide compilation, vere e proprie enciclopedie musicali, questa volta riferita alla Scandinavia, con i due artisti che ci siamo ascoltati. Conferma per Giovanni 2016, una compilation di qualche tempo fa. Noi abbiamo la fortuna di possedere molto materiale, grazie a Raffaele Pezzella, che e ci vorrà molto tempo per mandarlo. Tenendo conto la mia pignoleria nel mandare moltissime tracce di ogni compilation veramente pregne di musica, spesso imperdibile, quindi bisogna scandagliarle con certosina pazienza, cosa che a me non manca. Peraltro ricordo ancora una volta, per chi volesse bazzicare un profilo Facebook interessante, qualcosa di interessante su Facebook c'è, soprattutto questo Unexpressed Sound Group, dove si sente e si supporta musica indipendente e sperimentale. Passiamo a una delle personali scoperte e eccellenti novità del 2017, terminato da pochi giorni, e sto parlando di Pact Infernal, un progetto misteriosissimo. Non so proprio chi sia questo artista, forse di origine britannica, non so il nome, non so nulla. Ho chiesto a Gianluca Bicuzzi, che tutti conosceranno, perché è tramite lui che ho scoperto questa perla. Anche lui ha scarse notizie, quindi ci limitiamo ad ascoltarlo, e questo è il suo ultimo lavoro dal nome Infernality, un album che si muove tra ambient ed atmosfere anche etniche, se vogliamo. Ci ascoltiamo Initiation e Philosophy. Yeah. abbiamo risolto in parte l'arcano riguardante Pact Infernal. E non credo per mia disattenzione, perché io sono andato a vedere un po' i vari punti di riferimento, i siti Facebook, Backcamp e lo stesso Discogs. E fino a qualche giorno fa non c'era praticamente neanche i nomi di questi due artisti, che vengo a scoprire invece abbastanza noti, soprattutto da Giovanni Campagna. Sono Jean-Paul Decosté e Phil Wild, o Wilde, dato che sono belgi. Guarda caso, il Belgio, come al solito, ci riserva delle sorprese interessantissime. Fondatori, vedo, anche di Two Unlimited, un gruppo di elettronica. Ammetto un minimo di ignoranza e ringrazio ancora in questo caso Giovanni Campagna per l'utile informazione. Fatto sta che Pact Infernal è un ottimo disco del 2017. Due album al loro attivo, più tre extended play abbastanza sviluppate e lunghi di questa formula così tra ambient, IDM e atmosfere etniche. Abbiamo il piacere dunque di avere Giovanni in collegamento da Copenaghen e dedichiamo proprio a lui e ai suoi Terence i prossimi due passaggi. Terence è una delle sue, come dire, avventure soniche, l'altra è Soundox 65, che abbiamo sentito in passato. Terence invece è una novità, almeno per il sottoscritto, e stasera abbiamo una compilation dal nome Break of Day. Ci ascoltiamo Hemispherical e Converging Pathways Past the Outer Fringe. Leggo così male perché non ho gli occhiali questa sera e la stampa che ho fatto è pessima, quindi ho messo circa 30 minuti per dire due titoli. Break of Day, Terence. Saluto a Fabiola in quel di Ostia. We'll be right back. saluto anche a Giulia qui da Roma, sempre sulle note di The Break of the Day, The Terrence di Giovanni Campagna from Copenhagen. Dunque, T-Range, creatura di Giovanni Campagna, che ricordo è una stortura, diciamo, una distorsione di French, ossia trincea, come monito il messaggio antibellico, così ci tiene a farci sapere, a far sapere Giovanni Campagna, che salutiamo di nuovo da Copenaghen. Ottima IDM, queste atmosfere così crepuscolari e malinconiche. Un break all day che andremo ad ascoltare anche la prossima settimana. Mi piace accostare questo lavoro, strutturato in tal modo, a quello di Giovanni Leonardi, di Carnera, Siegfried, eccetera, eccetera, questo suo secondo lavoro, dal nome Monarch, che somiglia effettivamente a Tearanch, anche se le atmosfere di qui sono leggermente più astiose e in certi frangenti addirittura sfiorano il dub industriale. Sta per partire The Manchurian Candidate e Odile per Giovanni Leonardi. Yeah. sollecitato Giovanni Lelo Nardi risponde e lo salutiamo e ci onora anche lui della sua presenza. Un abbraccio a Giovanni Lelo Nardi che in questo momento sta andando col suo Monarch. E buon Giovanni Lelo Nardi, anche Siegfried Carnera, Divisione Sensucht, uno degli artisti più prolifici e interessanti degli ultimi anni del panorama italiano ed europeo in genere. E per quanto riguarda la sua dimensione solistica, due ottimi album in questo 2017, questo Monarch, mentre all'inizio dell'anno uscì The Alchemist Organizer. Salutiamo anche Enrico Cerrato di Petrolio, altra verità interessantissima della scena industrial italiana, da Asti. Un grande lavoro elettronico di destrutturazione del suono di Giovanni Leonardi, che salutiamo di nuovo. Da queste atmosfere in parte dilatate, in parte spezzettate, ci spostiamo invece per un attimo su qualcosa di più acustico e neoclassico, appartenente agli saccheggiati Camerata Medionolense. Questo Vergini Folli diviso in due lavori lo stiamo consumando letteralmente, ma è uno dei dischi migliori di questo 2017. E dal secondo CD fatto di strumentali e due o tre tracce nuove, ci ascoltiamo Anime e Inchiostri e Quando il Sol in una versione strumentale. Sono Amalia Guglielminè. Quando scrissi Le Vergini Folli nel 1907, molti pensarono, come d'annunzio, che io fossi l'unica vera poetessa italiana del tempo. Mi rovinò l'anticonformismo. Quante donne, oltre a me, hanno subito un processo per oltraggio al pudore? Sono Isabella di Morra. Nacqui nel 1520 nel castello di Favale. E lì vissi come reclusa. Nella poesia trovavo conforto. A 25 anni mi innamorai e i miei fratelli mi uccisero. Sono Cristina Trivulzio, anche se tutti mi ricordano come Cristina Archinto. Io che amavo Silvio Pellico, fui costretta a sposare il vecchio Archinto. Misi tutta me stessa, nella musica e nella poesia. Sono Vittoria Aganur, spensierata in apparenza, in realtà soffrivo di depressione. Le mie liriche furono molto apprezzate, ma oggi non mi ricorda più nessuno. In amore fui fortunata. Mio marito si suicidò sul mio letto quando io morii nel 1910. Sono Isabella di Morra, nacqui nel 1520, nel castello di Favale. Anche se lì ti ricordano come Cristina Archinto. Sono Vittoria Aganur, spensierata in apparenza. In realtà soffrivo di depressione. Le mie liriche furono i miei fratelli. Ma oggi non mi ricordo più nessuno. Nella poesia. Sono Isabella di Morra, nacqui nel 1520, nel castello di Favale. Nel 1520, come Vittoria Aganur. Della poesia della madre, la sua ricostruita a sposare il castello di Favale. Oggi ricorda me di sempre. Thank you. lo splendido Le Vergini Folli, album dedicato a figure femminili maledette, perseguitate soprattutto dal punto di vista poetico, ma non soltanto, sono state dominate all'inizio da Guglielminetti soprattutto. Queste Vergini Folli, bellissimo concept album. E questo è il secondo CD dal quale abbiamo estratto per l'appunto Anime e Inchiostri, che nominava e faceva una piccola storia di tutte le protagoniste orsù nominate. E questa traccia strumentale, Quando il Sole, è già presente ovviamente in parte cantata sul primo lavoro. Struggente pianoforte di Elena Previdi. Poi ovviamente, anche se un po' assente in questo album, prettamente al femminile, c'è Trevor. Marco Colombo le percussioni, Trevor per l'appunto percussioni, voce, tastiere e computer, e Manuel Aroldi alle percussioni. Protagoniste sono soprattutto le voci femminili bellissime di Desiree Corapi, Carmen D'Onofrio e Chiara Ronaldo. Le Vergini Folli, bello tutto dall'inizio alla fine. Nei suoi 16 brani, un 2 CD, quindi più un libro che parla proprio di queste vergini folli, queste poetesse maledette, nel senso ovviamente buono e artistico del termine.